un'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia, sono 7 minuti dopo le 12, puntata ridotta oggi dell'Altra Europa, perché dalle 12.30 ci sarà giustamente uno speciale per l'elezione del Presidente della Repubblica, una mezz'oretta quindi per raccontare come sempre l'Europa delle possibilità, l'Europa delle opportunità, un programma in collaborazione con il portale Euronet Plus, progetto che raccoglie tante radio europee, tante voci diverse per raccontare la stessa Europa. Ci trovate anche sulle nostre piazze virtuali, in particolare Twitter e Facebook, gli account Euronet Plus R24, quello ufficiale, oppure il mio personale @Federico Taddia. Lì trovate tutti i link relativi agli argomenti che andremo a toccare. Oggi vi daremo qualche dritta, qualche coordinata, parleremo di progetti europei, ma prima parliamo come sempre di quell'Europa che va costruita soprattutto partendo dalla cultura, soprattutto partendo dalla scuola. You think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society, you're crazy breed. I hope you're not lonely. Without me, when you want more than you have. Un progetto pilota per portare l'Europa nelle scuole, per fare educazione civica europea, un progetto che sta muovendo i primi passi proprio in queste settimane, che nasce da un accordo tra il Dipartimento Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il MIUR, e la Commissione Europea. Andiamo a capire cosa significa formare le nuove generazioni attraverso la formazione dei docenti. Lo facciamo con il capo settore stampa della Commissione Europea in Italia. Diamo il benvenuto a Evelina Jelenkowska. Ciao Evelina, buon sabato. Ciao, buongiorno. Entrare nelle scuole per fare formazione, partendo da chi formazione la deve saper fare, quindi i docenti. E questo è un po' il cuore del progetto, che si concretizzerà in cosa? È un progetto che per ora prevede due fasi. Siamo entrati appena nella prima fase, progetto pilota, dove abbiamo messo insieme i formatori professionisti con un'approfondita conoscenza dell'Europa da un lato, e un gruppo rappresentativo di insegnanti, 12 insegnanti, rappresentativo sia in termini geografici sia in termini di livelli di scuola, perché sì, vogliamo arrivare a tutti i livelli, quindi elementari, secondari e superiori, che hanno questo compito sicuramente difficile di inventarsi o reinventarsi la dimensione europea di quello che oggi è l'insegnamento di cittadinanza e costituzione nelle scuole italiane. E vogliamo darci anche un obiettivo temporale, che sarebbe entro 2020. Quindi fornire gli strumenti giusti per parlare di questa cosa così complicata. Tu in prima persona fai anche tantissimi incontri in giro per l'Italia per parlare d'Europa. È davvero così difficile raccontare l'Europa? In realtà è difficile e non lo è, perché l'Europa fa veramente parte di noi, quindi appena rendiamo la gente consapevole di questo fatto, dando anche ogni tanto degli esempi molto semplici, la gente è come se aprisse gli occhi, e questo vale molto anche per le giovani generazioni, perché va man mano un po', abbiamo vissuto la giornata della memoria poco fa, però inutile girarci attorno, quell'origine, quella paura che era l'origine dell'Europa si sta per fortuna allontanando, e quindi bisogna trovare anche altri modi per spiegare la ragione dell'Europa ai giovani, che Europa oggi è un'altra cosa. Evelina, e i docenti come hanno reagito? C'è sete di strumenti, c'è sete di Europa? Io devo dire che c'è un grande entusiasmo, anzi addirittura quando abbiamo mandato il comunicato stampa, che abbiamo annunciato questa iniziativa dove il gruppo pilota era già scelto, abbiamo ricevuto anche tante telefonate di vari posti in Italia, di vari insegnanti che spontaneamente volevano partecipare già al progetto pilota, quindi questa è stata una bellissima consapevolezza che c'è sete, assolutamente sì. Quali saranno gli strumenti per avere qualche informazione in più sul progetto? Immagino le vostre piattaforme virtuali in primis. Questo sicuramente, diciamo che in questo momento il gruppo pilota sta lavorando molto intensamente e speriamo che alla fine di marzo si arriverà già alle prime idee, perché quello che loro hanno compito di fare è proporre delle indicazioni, delle linee guida come portare questa, quindi sia in termini di temi, sia in termini di strumenti, in primis agli insegnanti ovviamente, perché gli insegnanti, come detto, non sempre hanno quegli strumenti giusti e le capacità, le conoscenze che permetteranno poi dopo ad arrivare ai ragazzi. Quindi noi speriamo che a brevissimo avremo già qualche idea di come portare questa Europa nelle scuole e poi ovviamente si partirà con, perché stiamo parlando di 235 circa mila insegnanti che saranno direttamente, diciamo, interessati in questo progetto e in questo cambiamento. 200.000 insegnanti sono tanti, sono veramente, cioè può e deve essere un'esperienza impattante, perché si parla di numeri elevati. Ricordiamo la pagina Facebook, direi, della rappresentanza in Italia della Commissione Europea come primo step per avere le informazioni, che è Europa in Italia, dico bene? Sì, benissimo, Europa in Italia. Perfetto. Grazie a Evelina Jankowska, capo settore stampa della Commissione Europea in Italia. Ciao Evelina, buon lavoro. Grazie a voi e buon sabato. Un euro post-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua in diretta con l'altra Europa. Euro post-it. Un nuovo bando europeo su diritti, uguaglianza e cittadinanza. L'Unione Europea è alla ricerca di progetti nazionali e internazionali che possano promuovere e rafforzare l'esercizio dei diritti dei cittadini europei. Se avete un'idea nel cassetto, questo è il vostro momento. Azioni di sostegno ai progetti nazionali e internazionali volti a promuovere la cittadinanza dell'Unione Europea è il titolo del bando pubblicato nell'ambito del programma Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza 2014-2020, finanziato dalla Direzione Generale Giustizia della Commissione. Il budget complessivo a disposizione è di 1,5 milioni di euro. Tutte le informazioni collegandovi al sito della Direzione Generale Giustizia ec.europa.eu/justice, ma affrettatevi, c'è tempo solo fino al 4 febbraio. L'altra Europa. Ancora l'altra Europa, come vi ho anticipato, una puntata ridotta per dare giustamente spazio all'elezione del Presidente della Repubblica. Con me è Anna Rita D'Ambrosio. Anna Rita, ci siamo quasi? Sì Federico, ti ruberemo spazio perché ci siamo quasi. I tempi oggi sono un po' più lunghi per una serie di motivi, perché nei giorni scorsi, nelle precedenti votazioni, nel cosiddetto catafalco sotto il quale passano tutti i parlamentari, ci si tratteneva poco perché si doveva votare scheda bianca. Oggi bisogna scrivere un nome, e anche un nome diciamo abbastanza lungo, come quello di Sergio Mattarella, e quindi sta impiegando un po' più di tempo. In questo momento stanno votando i delegati delle regioni, in tutto devono votare, come saprete, 1,009 persone, quindi tra poco ci siamo e incomincerà lo spoglio. Poi è chiaro che appena inizia lo spoglio incominceremo a capire gli umori con i nostri colleghi della redazione romana molto rapidamente. Per questo abbiamo deciso di rubarti questa mezz'ora, per cui l'appuntamento con lo speciale di Radio 24 è intorno alle 12.30. Mi sembra però che la notizia del momento sia la panda, vero, con cui è stato visto Sergio Mattarella. Questa sobrietà, noi abbiamo parlato di sobrietà, ecco, l'ha dimostrato subito, devo dire, il nuovo capo dello Stato, possiamo dire così, ecco, almeno in sorprese clamorose, nel senso che ha lasciato il suo appartamento a bordo di una panda, quindi torniamo ad una normalità che forse questo paese ha bisogno. Assolutamente. Alle 12.30 lo speciale di Radio 24. Grazie, a fra. Grazie a te. Pochissimo, noi continuiamo a parlare dell'Europa che ci piace raccontare, l'Europa delle possibilità e l'Europa delle opportunità. Lo facciamo con una bella esperienza che è stata lanciata lunedì scorso, quindi nuova, un gruppo di professionisti si sono messi insieme per raccontare l'Europa dei fondi europei, dei progetti europei, realizzando un portale molto, molto bello, molto importante, molto ben fatto. www.europagarage.it è il sito. Con noi c'è il fondatore e il coordinatore del progetto, che ci ha raggiunto al telefono e che ringraziamo per essere qua con noi. Diamo il benvenuto. C'è il telefono, a Marco Navarro, eccolo qua. Ciao Marco. Ciao Federico, ciao. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao Marco, allora, un'esperienza nuova, un'esperienza che mi piace raccontare perché è l'Europa anche che dà lavoro, l'Europa che ti chiede di arrangiarti, di essere creativo, di darti da fare, e la vostra esperienza è metafora di tutto ciò. Chi siete e cosa vi siete inventati? Allora, intanto grazie dell'invito e dello spazio che ci concedete. Allora, Europe Garage è un portale appunto realizzato da una rete di professionisti che hanno costituito un network che riesce a coprire tutto il territorio italiano sul campo dell'europrogettazione, ovviamente. Europrogettazione che vuol dire informazione, consulenza e scrittura quindi di bandi europei. Il nostro portale supporta imprese, organizzazioni, aspiranti imprenditori, chiunque ne abbia interesse comunque, nell'individuazione delle migliori opportunità di finanziamento europee. Diciamo che il portale nasce un po' da un'esigenza, Federico, perché diciamo che oggi in Italia, almeno in Italia, questo settore, questo mondo è un po' avvolto, diciamo, da una coltre di nebbia. Cioè tutti, insomma, se chiediamo un po' in giro, tutti hanno sentito parlare di fondi europei, credo, o comunque addirittura hanno sperato di poterne in qualche modo beneficiare, ma in realtà chi li conosce veramente sono forse soltanto gli addetti ai lavori. Quindi il portale nasce con l'esigenza di semplificare, di fare chiarezza in questo mondo e diciamo dare all'utente una idea precisa di quelli che sono i fondi europei. Certo, allora a scanso di equivoci, anche voi siete dei professionisti, fate rete tra di voi e ovviamente fate anche consulenza, nel senso che non siete un ente pubblico, siete dei privati che si mettono a disposizione per la progettazione europea. Però sì. Il portale che avete realizzato è veramente una vetrina utilissima per tutti, una vetrina open, una vetrina gratuita, dove raccogliete il massimo delle informazioni che si possono dare circa tutti i progetti europei. Assolutamente sì. Infatti il nostro sito è organizzato in maniera da poter monitorare costantemente e a livello giornaliero i bandi che sono attivi su tutto il territorio nazionale. Infatti Europe Garage segue la stessa distinzione che seguono i fondi europei, e cioè il sito principale tratta il tema dei programmi europei a gestione diretta, di cui molti hanno sentito parlare, sì. Quindi Erasmus Plus, Horizon e così via, quei cosiddetti fondi che sono aggredibili poi da tutti i cittadini europei, mentre i 20 siti regionali monitorano costantemente le opportunità di finanziamento dei cosiddetti fondi strutturali, che quindi sono differenti da regione a regione, hanno diverse scadenze e sono costituiti da diverse azioni e misure. Di conseguenza noi operiamo come network di professionisti che fornisce un servizio di informazione, ma interviene anche nelle modalità di progettazione, quindi forniamo una consulenza diretta ai nostri utenti e garantiamo uno standard qualitativo molto alto grazie al fatto che siamo tutti coinvolti in questa professione da anni. Europegarage.it, Europe Garage, così è scritto.it, sì. Il portale, sai, col programma monitoriamo tanta esperienza anche di informazione, di comunicazione, devo ammettere che è molto ben fatto, è aggiornato, è ricco di informazioni, è anche e soprattutto per non addetti ai lavori, davvero un ottimo strumento. Grazie a Marco Navarro, in bocca al lupo a te e a tutto il tuo team. Grazie Federico, grazie a tutti. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Energy, style, self-confidence. The place is irresistible. Chic Michelin star restaurants would die for a review like this in The Times. A real triumph for 15 Cornwall, a restaurant that started as a social experiment to give young people in England's southwest, a region with high youth unemployment rates, a fresh start. This groundbreaking apprenticeship scheme, the brainchild of celebrity chef Jamie Oliver, trains 16 to 24-year-olds and helps them to find permanent work. Ancora progetti europei oggi all'altra Europa. Quello che state ascoltando è l'audio di un progetto vincitore di Regio Stars. Che cos'è Regio Stars? Regio Stars è un concorso sui progetti europei più belli, una vetrina, davvero una vetrina reale, concreta, creativa dell'Europa, delle opportunità e delle possibilità. Il 28 febbraio è la data ultima per inviare le candidature, ma per capire meglio di cosa di cosa si tratti e come si possa e chi possa partecipare. C'è con noi Matteo Salvai della Direzione Generale Politiche Regionali e Urbane. Ciao Matteo, benvenuto all'Altra Europa. Ciao Federico, grazie mille. Allora, tu insomma lavori lì in prima linea a Reggio Stars, di cosa si tratta? Perché nasce questo concorso e quali sono gli obiettivi reali al di là del premio? Sì, sì, questo concorso nasce nel 2008, quindi quest'anno siamo all'ottava edizione e diciamo, come dicevi tu prima, serve per cercare di valorizzare i progetti più innovativi, più interessanti, che hanno un miglior impatto sociale economico, che sono economicamente sostenibili anche nel lungo termine, che sono ripetibili in altri contesti e che siano finanziati dalle politiche di coesione dell'Unione Europea. Sono i progetti che vengono cofinanziati dalle regioni o dai ministeri. Sì. E abbiamo una vastissima gamma di progetti che per partecipare a questo concorso devono rientrare in una delle quattro categorie, che sono o la crescita cosiddetta intelligente, cioè nell'ambito dell'economia digitale, o la crescita sostenibile, diciamo quindi nel campo dell'efficienza energetica, o quella che viene definita la crescita inclusiva, cioè integrare nella società che coloro che sono a rischio di esclusione sociale, o l'ultima categoria si chiama City Star, diciamo progetti di trasformazione e valorizzazione urbana. Chi può partecipare sono solitamente le autorità di gestione, ovvero le regioni e i ministeri che segnalano dei progetti. Sì. Oppure gli stessi promotori dei progetti, che però devono essere, per presentare domande, devono essere in un certo senso avallati, devono avere l'endorsement da parte della regione da parte dei ministeri. Sì. La cosa interessante è che in alcuni paesi, penso ad esempio alla Lituania, si organizza un Reggio Star nazionale per candidare, diciamo, i migliori 3 o 4 progetti al concorso poi europeo. Ok, quindi insomma qualcosa, perché diventa proprio, come dicevo prima, una vetrina anche della creatività di un paese, no? Perché spesso questi progetti sono l'esplosione di idee innovative, di idee nuove, di idee anche replicabili, che è l'importante del concorso, anche questo, mettere in circolo stimoli, mettere in circolo spunti creativi. Questo è il punto, infatti l'idea è di creare un network di buone pratiche, che siano delle buone pratiche che siano ripetibili, per cui anche l'aumento della premiazione, ci sarà un vincitore per ogni categoria, ma ci saranno quattro finalisti per tutte le quattro categorie che saranno invitati a questa, diciamo, serata di premiazione che si terrà ad ottobre durante gli Open Days a Bruxelles. Ma l'idea è provare appunto a scambiare pratica a livello internazionale. Allo stesso tempo, sul sito della politica regionale della Commissione ci sono un database di progetti per cui che possono, diciamo, essere da ispirazione per chi deve implementare queste politiche, pensare a nuovi progetti, capire che cosa si fa in altre regioni, in altri stati. Mm-hmm. Già in inizio di puntata parlavamo del come comunicare l'Europa. È complicato comunicare questi, raccontare, renderli un po' caldi questi progetti? Sì, è abbastanza complicato perché alcuni progetti sono effettivamente molto specifici, molto tecnici. Però ad esempio quello che avete appena mandato in onda, che era lo spot di un progetto che ha vinto l'anno scorso, che è stato vinto da questo chef molto famoso in Gran Bretagna, diciamo l'equivalente, diciamo un crack in salsa inglese, che, sì. Che diciamo che nel suo ristorante fa un processo, attivato un progetto di attivazione al lavoro, cioè per cui va a cercare dei giovani svantaggiati, esclusi socialmente, che non frequentano più la scuola, e li forma per diventare, non dico chef, ma diciamo cuochi. E questo è un progetto che va avanti da diverso tempo, e questo invece è un progetto molto facile da raccontare. Certo. Anche, diciamo, il vantaggio di avere una sorta di star televisiva attorno che aiuta. Aiuta. Sicuramente aiuta. Matteo, c'è un sito internet di riferimento per tutte le informazioni? Sì, diciamo, ci sono due o tre cose che sono il sito internet della politica regionale della Commissione Europea. È più facile passare attraverso un motore di ricerca che non darvi l'indirizzo. Perfetto. Poi c'è l'hashtag Reggio Stars su Twitter, e poi c'è l'email al quale vanno mandate le candidature, come dicevi, entro il 28 febbraio, che è regio-stars@ec.europa.eu. Tutti questi link anche sulle nostre piattaforme digitali. Un grazie davvero a Matteo Salvà, in bocca al lupo, ci ritroveremo sicuramente per raccontare poi i progetti vincitori. Ciao e buon sabato. Grazie mille a voi. Europost-it. Concorso video del Comitato Europeo Economico e Sociale. Mettete alla prova la vostra creatività con l'ESC Video Challenge, organizzato dal Comitato Europeo Economico e Sociale in partenariato con la Presidenza Lettone del Consiglio dell'Unione Europea. L'edizione 2015 dell'ESC Video Challenge è un concorso misto di musica e video. La sfida europea in armonia è aperta a registi amatoriali, cori e gruppi di cantanti dai 28 Stati membri. I candidati devono interpretare l'inno alla gioia, accompagnato da un videoclip. Il video potrà essere dedicato a qualsiasi tema europeo. La scadenza per la presentazione dei video è il 20 febbraio 2015 e sarà seguita dal voto del pubblico e la selezione da parte di una giuria. Per tutte le informazioni, eesc.europa.eu/video-challenge/2015. Questi sono i nostri Europost-it. Vi ricordo che tutto ciò lo potete ritrovare sul nostro sito radio24.it oppure sulle nostre piattaforme virtuali. Il mio account personale è Federico Taddia. Un grazie a tutta la squadra dell'Altra Europa. Adesso è il momento dello speciale di Radio 24 per l'elezione del Presidente della Repubblica. L'appuntamento con me, come sempre, a sabato prossimo. Ancora ciao! L'Altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.